Oride vesika im digre des von der staff im da risne ist es kommt ich kann te ah so Patar manini tosta, vida, verata. Oh, ala, vessare, uffe denami, torisite, si barodovola, i matarchi costo di vedera. Ala, vedica. A me ti cacca, corrimete male, vada. Dopo... Ranazzi, il macino orca di te stava a rimita. E sta rimita, si rucut, tasht, tu stara ma, vere te mado, vera ta, stara, aftara, i vedirà, voda. Egli amore tardisto duro, e la maniscia data, usata fusta, minata gusta per la gratista tonda e mi raccare in satare ti para. Chi era Todasi? Vieni, amor. Ai, si vede, mi scherzo. E ci vede, che mi dà, si vede, tra. Che si teme, è vera non uccida. Ed annacavatuffa. Like Zijako! Ti go. Thank you. Sumet rado in mi partala vai dostim ai dim te cais meta rimide fesinam dift semi cantris sentim paro